lunedì 25 giugno, intanto uno sguardo ai titoli con il Sole 24 Ore, l'apertura, una stretta per il welfare, questo è il titolo dell'edizione del lunedì, accesso ai servizi, cresce la rilevanza dei patrimoni e beni di lusso. Per Repubblica invece crescita, arriva il piano città, 2 miliardi per i capoluoghi, euro, allarme della BRI sulle banche. Per invece molti giornali c'è anche l'apertura sulla vittoria, la proclamazione in Egitto del nuovo presidente Mursi, vittoria storica dei musulmani, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre la stampa, svolta in Egitto, vincono i fratelli musulmani, la rivoluzione continua, e anche per il Messaggero, Egitto, svolta musulmana. Il giornale invece titola l'Italia che va, ecco l'unico rigore che ci piace, facciamo fuori l'Inghilterra dal dischetto, cara Merkel, ci vediamo in semifinale. Insomma, il giornale di Sallusti la butta sulla rivalità anche calcistica con la Germania, giovedì la semifinale. L'Unità invece sulla politica, Monti teme gli agguati del PDL, questo è il titolo d'apertura. C'è anche chi sceglie proprio l'Italia, i leoni siamo noi, con la foto di Balotelli e l'apertura del secolo XIX, mentre il quotidiano nazionale urlo azzurro. Insomma, la vittoria ieri, c'erano anche i cortei ieri con le macchine che suonavano per una semifinale agli europei, però vuol dire che è stata una battaglia vinta poi all'ultimo rigore. Allora, da cosa vogliamo partire? Da due notizie che riguardano la politica. La prima, Carlo Bertini sulla Stampa racconta una vicenda, io quando l'ho letta non ci volevo credere, ma invece è così. Attenzione, rischiamo nel Partito Democratico l'arrivo di diversi esodati. Saranno esodati di lusso, per carità, ma il caso c'è. Leggete la Stampa, pagina 15, nel PD incalzato da Renzi spuntano gli esodati di lusso. Di che si tratta? Beh, certo, intanto Carlo Bertini inizia con una ammissione di Nico Stumpo, responsabile organizzazione del PD, che ha detto: certo che con l'aria che tira non possiamo mica farci carico di questo problema, perché coi pensionati che non arrivano a 1000 euro al mese, i 120.000 esodati in trepida attesa, se noi ci preoccupassimo di salvare i nostri onorevoli che rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione, ci verrebbero ad aspettare coi forconi. E giustamente. Allora la questione è questa: se si rispettasse il limite dei 3 mandati dello statuto del Partito Democratico, limite che per la verità poi ha diverse deroghe a ogni elezione, molti attuali del Partito Democratico non potrebbero essere rieletti alla prossima legislatura. Con le modifiche che prevedono che il vitalizio venga erogato da quando uno ha 60 anni, ora, ci sarebbero molti esodati. Diversi parlamentari che hanno 51, 52, 53 anni non verrebbero più ricandidati, non avrebbero maturato l'età, anche se le legislature sì, ma l'età no, per ottenere il vitalizio. E di che vivono questi del Partito Democratico esodati di lusso? Ovviamente avranno anche un'ottima liquidazione, vivranno benissimo, ma tra questi, racconta Carlo Bertini, vi è un congruo numero di potenziali esodati. Certo, ci saranno alcune deroghe, non so, si immagina che i Franceschini, Letta, Gentiloni, Fioroni certamente verranno ricandidati, ma altri pezzi forti come i La Torre, Melandri, Minniti, Sereni, Follini, Realacci, Bressa, Maran, Merlo, Tonini, solo per dirne alcuni, che fine faranno? Diventeranno esodati di lusso? Ecco, questa è una delle problematiche lanciate oggi da Carlo Bertini per quel che riguarda la politica italiana, la trovate sulla Stampa a pagina 15. Dopodiché io non posso non relazionarvi sulla la barzelletta della questione delle province, il taglio delle province, perché sapete che il ministro della funzione pubblica Patrone Griffi ha ristabilito nuovi parametri per cancellare diverse province italiane, una storia che affonda le radici ormai nel paleolitico della politica. Ma oggi, sia al Sole 24 Ore, il governo punta a tagliare 42 province. Questo è il nuovo termine. 42 province, dettagli li trovate a pagina 8 con Eugenio Bruno e Davide Colombo. I criteri stabiliti sono 3. Vale a dire, province che devono avere almeno 350.000 abitanti, un'estensione territoriale di almeno 3.000 km quadrati e un numero di almeno 50 amministrazioni comunali sul territorio. Chi non rispetta due di questi parametri è a rischio cancellazione. Dunque, dai calcoli sarebbero 42 le province cancellate. Oggi anche Sergio Rizzo sul Corriere della Sera fa una pagina su questo, a pagina 13, divise dalla storia o create in laboratorio, province, accorpamenti impossibili. E Sergio Rizzo effettivamente, come vi dicevo da qualche giorno, pone l'accento su questo, ma com'è possibile pensare di accorpare delle province che storicamente sono sempre state rivali, rivali perché le popolazioni... nel campanilismo italiano le popolazioni di queste province si sentono rivali davvero storiche. E per esempio sentite Sergio Rizzo: comunque vada, un risultato la proposta di Patroni Griffi la otterrà, quello di segnare una nuova era nella guerra dei campanili provinciali. In Emilia potrà rinascere una sola provincia sui territori di Parma e Piacenza come ai tempi dei papi Farnese. In Toscana, dove teoricamente potrebbe sopravvivere solo la provincia di Firenze, che ne sarà di Arezzo? Fiorentini e aretini si guardano in cagnesco dalla battaglia di Anghiari di 6 secoli fa. Cruciale per i destini della Toscana e la supremazia di Firenze, fu poco più di una rissa da stadio in realtà, se dobbiamo credere a ciò che scrisse Machiavelli, che scrisse così: ed in tanta rotta, in sì lunga zuffa che durò dalle 20 alle 24 ore, non vi morì che un uomo, il quale non di ferite né d'altro virtuoso colpo, ma caduto da cavallo e calpesto, spirò. Pare certo che morirono più cavalli che cristiani, ma Sansepolcro ne potete stare certi, scrive Rizzo, c'è qualcuno a cui ancora gli girano. O ancora, come siamo pronti a giurare che a Siena c'è chi non si rassegna al fatto che buona parte dei famosi Paschi, da cui ha preso il nome la grande oggi ferita banca italiana al Monte dei Paschi, siano finiti sotto giurisdizione grossetana. E allora com'è possibile unire tutto questo? Ci prova con i nuovi criteri il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi. Auguri, ovviamente, non per essere pessimisti, ma insomma, è quasi una scommessa vinta senza neanche andare a puntare il classico euro. Non si farà nulla in realtà. Cosa invece si è fatto in Sardegna? E così vi voglio lasciare prima della pubblicità con questa notizia. In Sardegna sapete che sono state cancellate 4 province, ma attenzione, l'Italia è sempre, lo dovete ormai avere capito, la patria del cavillo e delle deroghe e delle leggi, delle leggine. E allora sul Sole 24 Ore: abolite dal voto, prorogate dalla legge. Le hanno cancellate i sardi che sono andati a votare al referendum, le 4 piccole province sarde, ma ci si è resi conto che la questione non era automatica, sullo scioglimento che sembrava immediato. Cioè uno va a votare un referendum per cancellare delle province, ma non è mai facile, la burocrazia ci si mette sempre di mezzo. E allora, racconta il Sole 24 Ore, la strada scelta è quella solita, la proroga. Tutto slitta al 28 febbraio dell'anno prossimo. Fino a quella data le 4 province virtualmente abolite continueranno a funzionare in attesa di una legge che riorganizzi l'assetto generale delle amministrazioni provinciali e che dovrà vedere la luce entro fine ottobre. Io ci leggo 2 cose. Intanto, cari sardi che avete votato, il vostro voto è stato virtuale. Lo avete scritto su una scheda che si è vaporizzata virtualmente una volta messa nelle urne. E poi attenzione, la legge che dovrà cancellare di fatto le province che voi avete già cancellato, ma il vostro volere conta a metà, legge che dovrà vedere la luce entro fine ottobre. Non è che se entro fine ottobre non ci sarà alcuna legge che vedrà la luce per cancellare queste province rimarranno in piedi in eterno, ma sapete, sai che a pensare male a volte. Ci fermiamo 5 minuti. Allora, intanto la prima della politica italiana, qualcosa ancora sul tema tagli e il tentativo di rilanciare l'Italia. Questa è una settimana anche importante, ci sarà il Consiglio europeo e vedremo che più avanti che è importante anche dal punto di vista della politica. Intanto per quel che riguarda la sanità, nel mirino di Bondi, il super commissario Bondi, spese per 35 miliardi, così titola il Corriere della Sera a pagina 6, primi esami sulla spending review al Consiglio dei Ministri. Il tema della spending review in realtà è stato, credo, è slittato di una settimana rispetto alla scadenza iniziale. 35 miliardi di euro, tanto ammonta la spesa sanitaria legata all'acquisto di beni e servizi entrata nel mirino della commissione del commissario Bondi alla spending review. Così scrive Mario Sensini a pagina 6 appunto del Corriere. Tra l'altro c'è anche un intervento di Francesco Giavazzi, perché l'editorialista, ma in questo caso interviene in quanto consulente chiamato da Monti per vedere le revisioni dei finanziamenti alle imprese. Qualcuno ha detto: ma che è successo? Che fine ha fatto quella relazione di Giavazzi? Ebbene, Giavazzi fa sapere: caro direttore, le analisi e raccomandazioni sui contributi pubblici alle imprese che mi erano state chieste al Consiglio dei Ministri del 30 aprile sono state consegnate il 23 giugno al Presidente del Consiglio e al Ministro dello Sviluppo. Vorrei tranquillizzare dunque i commentatori e i giornali che si chiedono che fine abbiano fatto i tagli di Giavazzi. Il mio lavoro non è stato ostacolato, anzi ho avuto la collaborazione di molte istituzioni e il piccolo gruppo di lavoro che ho coordinato ha fatto proposte concrete, ha cercato di stimarne gli effetti, non trascurabili sulla crescita, ha anche provato a redigere uno schema di decreto legge che potrebbe essere lo strumento per attuarle. Sono certo che il Presidente del Consiglio leggerà il documento con attenzione, mi auguro che lo troverà anche di qualche utilità. Così Francesco Giavazzi dunque placa le critiche sul tema che fine hanno fatto invece quei commissari e lui in primo luogo. C'è invece un altro tema sul quale Repubblica lancia l'apertura di prima pagina. Arriva il piano città per quel che riguarda la crescita, è pronto per il governo un piano per la crescita dei centri italiani. Si tratta di opere di riqualificazione che riguarda diverse città importanti come Bologna, Napoli, Genova, Firenze, Bari, Roma. E un piano per creare nuovi quartieri, nuove infrastrutture. Il piano città è tutto dettagliato a pagina 6 e 7. Ecco i progetti sul tavolo del governo. È un'iniziativa voluta fortemente dal vice ministro delle infrastrutture Mario Ciaccia, che dovrebbe portare, spiega il vice ministro, a creare 100.000 nuovi posti di lavoro a regime. Il governo mette 2 miliardi di euro, scrive e dice Ciaccia, risorse finora in ordine sparso, dotazioni già stanziate, in parte recuperate da progetti terminati o mai avviati. E di cosa si tratta? Città per città, Repubblica fa il dettaglio. A Firenze, mega parcheggio e piazza Giardino per far decollare il Teatro del Maggio. A Bologna, alloggi sociali, scuola e centro culturali, così verrà riqualificato un quartiere. A Bari, bacino nautico e acquario per rilanciare il San Girolamo Fesca, insomma tante iniziative. Poi Napoli, Roma, Genova, il piano città, così è definito, per rilanciare la crescita. Mentre sempre per rilanciare la crescita il tema casa, tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore con uno speciale casa legato al decreto sviluppo. Vale a dire che cosa? La detrazione fiscale del 50%, era del 36% e sale ora al 50% per i lavori di ristrutturazione e recupero edilizio nelle abitazioni, ma anche gli altri interventi agevolati dalla misura, per esempio l'installazione di porte blindate. Trovate anche qui tutti i dettagli per cercare di rilanciare in decreto sviluppo il tema delle ristrutturazioni riguardanti la casa, e a pagina 4 e 5 del Sole 24 Ore trovate, ma quando dico tutto vuol dire i dettagli, dal balcone ai garage, ai condomini, ai pavimenti, le porte, seminterrati, tutto quello per le ristrutturazioni edili e per le detrazioni fiscali previste dal decreto sviluppo. Diciamo questi gli elementi che vengono lanciati per la crescita. Certo, poi la settimana sarà più importante, improntata a quello che succederà in Europa. Anche perché Mario Monti pare che andrà in Europa il 28-29 giugno al Consiglio europeo con un occhio a quello che appunto si deciderà lì e con un occhio a quello che si potrebbe decidere qui in Italia, dove ormai è abbastanza chiaro, c'è un'ala di falchi, vengono così definiti per esempio nel Popolo della Libertà, che mira a dire attenzione, vediamo che cosa succederà a questo Consiglio europeo e poi decideremo se Monti ha davvero ancora il gradimento del partito e se può continuare il proprio lavoro oppure se il suo tempo è scaduto e dunque bisognerebbe andare a votare. Monti e la tenaglia dei partiti, così pagina 14 della Stampa. Sul dossier delle riforme, ma anche sul tema della politica e sull'appoggio, tra l'altro c'è un balletto abbastanza stucchevole, devo dire, in questi giorni della politica, da una parte e dall'altra è iniziato il siete voi che volete andare a votare anticipatamente a ottobre, no siete voi, no l'avete detto voi, il PD dice che teme che il PDL voglia andare a votare, il PDL con Alfano dice che è un transfer di Bersani per cui il desiderio in realtà è suo ma lo mette in bocca quelli del PDL. Insomma, la questione è che davvero ci sarà questo snodo di fine giugno per capire qualcosa di più. Questa settimana pare abbastanza decisiva per capire se i partiti e quale partito vorrà staccare la spina, per usare questa espressione, del sostegno parlamentare a Monti. Sta di fatto che ieri, per esempio, Alfano ha ancora detto no al voto anticipato, anche se all'interno del Popolo della Libertà il tema soprattutto è da alcuni giorni il possibile ritorno di Silvio Berlusconi. Ci sono quelli che premono come la Santanchè, come Galan, che premono per il ritorno di Berlusconi. Ci sono quelli che dicono no, Berlusconi faccia il padre nobile, faccia l'allenatore, ma il nostro segretario è Alfano. Per esempio viene intervistata Mara Carfagna sul Corriere della Sera, pagina 10, l'ex ministro. Io sostengo le primarie e credo nel progetto di Angelino Alfano, dice Mara Carfagna. Berlusconi resta il leader dei moderati, ma non ha detto mi ricandido. La sua è stata una provocazione, tanto è vero che ha aggiunto mi ricandido se mi date il 51%. Ma lei non ne avevate mai parlato con Berlusconi? In riunioni ristrette ci aveva confessato la difficoltà a immaginare una sua nuova discesa in campo. Ma lo aveva detto anche altre volte. Ma nell'ultimo ufficio di presidenza, ripete Carfagna, i primi di giugno ha avallato e sottoscritto la decisione di rafforzare il Popolo della Libertà. Insomma, il Popolo della Libertà si divide tra chi pensa deve tornare Berlusconi oppure no, Repubblica li mette anche così, appunto, chi vuole Silvio sono soprattutto Santanchè, Galan e anche la Biancofiore, chi vuole Angelino Alfano, Cicchitto, Gasparri e la Meloni. In questa divisione di Repubblica che trovate a pagina 15, il ritorno di Berlusconi spacca il PDL, si mobilitano gli scudieri di Angelino. C'è anche quest'altro tema, guardate sul Secolo XIX, un retroscena, il messaggio lanciato da Alfano, perché questo sarebbe il timore di Berlusconi: le primarie in realtà sono inutili. Le facciano pure con le regole che vogliono, sono parole messe in bocca a Berlusconi, e che vinca il migliore. Tanto poi, se decido di candidarmi, nessuno nel partito si sognerà di contestare la mia leadership. Questa sarebbe l'idea di Berlusconi, al quale viene ancora messo in bocca questa frase nell'articolo di Bruno Lugaro, lo trovate a pagina 3. Alfano è bravo, è serio, ma non ha l'autorevolezza per guidare il fronte moderato. La prossima sarà una battaglia durissima con la sinistra e serve gente tosta. Insomma, un Berlusconi che, secondo indiscrezioni, non si fiderebbe della forza persuasiva di Alfano. C'è poi che cosa? Il caso Lusi, il caso Formigoni, il caso Beppe Grillo. Ha rilasciato un'intervista a un giornale israeliano con delle parole che stanno facendo discutere, a dir poco, tra poco. Intanto devo fare un passo indietro, rispondo a un ascoltatore che mi ha mandato un sms dicendo: ma scusi, la notizia della cancellazione delle province non l'aveva già letta tipo 4 mesi fa? ne sono certo, ma caro ascoltatore, ma è certissimo, l'avrò letta, si sbaglia, l'avrò letta anche 4 anni fa, anche 3 anni fa, 2 anni fa, probabilmente anche tra 4 anni gliela leggerò. D'altronde, se su questo tema siamo il paese di Pulcinella, non ci posso fare niente, quindi non si sbaglia lei. 4 mesi fa, anzi 4 anni fa, sicuramente l'avrò letta sui giornali, d'altronde è stata pubblicata. Allora, la politica, per l'appunto, c'è ancora il caso Lusi, l'ex tesoriere della Margherita in carcere, che parla, l'appunto di Rutelli, voleva ripartire i fondi e l'offshore in Canada. È un Lusi che ora sta alzando il tiro, attacca tutti, attacca Rutelli, attacca Enzo Bianco, ovviamente loro reagiscono dicendo quando finirà questo calvario, ma attenzione, perché in prima pagina del giornale Vittorio Feltri è molto duro nel suo editoriale, dal titolo La barzelletta dei vertici all'oscuro: ci rifiutiamo di pensare a Luigi Lusi come un allocco che ha rubato oltre 20 milioni di euro alla Margherita convinto di farla franca. Un minimo di logica, per favore. Uno non viene nominato tesoriere di un partito importante, zeppo di soldi riscossi sotto forma di rimborsi elettorali, se non gode della fiducia totale della dirigenza. Insomma, un Vittorio Feltri che non crede ai vertici all'oscuro. Via, si può essere ingenui ma non idioti al punto di farsi fregare tanto denaro pur consapevoli dell'ammontare di un patrimonio che chiunque avrebbe custodito con attenzione. Qui bisogna darsi una svegliata e capire come sono andate le cose. Gli immobili sono facili da rintracciare, basta andare al catasto, dare un'occhiata alle carte. Un tesoriere privo di complici che desideri sottrarre quattrini lo può fare comodamente occultando contanti all'estero. Se viceversa firma degli atti notarili come il senatore ha fatto, è evidente, non supponga di essere denunciato. E allora la vicenda riserverà sorprese clamorose, prepariamoci. Tra l'altro, in questo finale io ci leggo anche, come dire, come se Vittorio Feltri sapesse e avesse in mano qualcosa, perché insomma, dire la vicenda risolverà sorprese clamorose, prepariamoci, conclude così il suo editoriale. Mentre la vicenda Formigoni, il presidente della regione Lombardia, insiste ancora: non ho ricevuto nulla, non sono indagato, ma i dettagli continuano sul Corriere della Sera. Vi invito oggi alla lettura di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, il titolo dell'articolo: D'Accò, giallo su 10 milioni in contanti, il giro dei soldi dalla Maugeri allo yacht. Ma Formigoni insiste, appunto, nessun avviso di garanzia ricevuto. C'è anche lo sfogo del direttore generale della sanità della Lombardia, che anche lui, il Corriere, scrive, è indagato e dice: troppo fango, ormai mi sento già condannato. Carlo Lucchina, 63 anni, deus ex machina dell'assessorato alla sanità, indagato per corruzione, dice: mi sento già condannato, sui giornali, ancora prima che inizi eventualmente tutto. Ma dicevo, Beppe Grillo oggi lo trovate sul Corriere della Sera, questa notizia. Francesco Battistini la riporta, pagina 11, ha rilasciato un'intervista al giornale israeliano Yediot Ahronot. E che cosa ha detto? Dal Mossad all'Iran, le parole di Grillo, un caso in Israele. Parlava per esempio Beppe Grillo, che ha una moglie iraniana. Ha detto alcune perle di Beppe Grillo, sentiamole. I massacri in Siria, ci sono cose che non possiamo capire, non sappiamo se sia una vera guerra civile o si tratti di agenti infiltrati nel paese. L'Iran di Ahmadinejad, un giorno ho visto impiccare una persona a Isfahan, ero lì, mi sono chiesto cos'è questa barbarie, poi ho pensato agli Stati Uniti, anche loro hanno la pena di morte, hanno messo uno a dieta prima di ucciderlo perché la testa non si staccasse, allora che cos'è più barbaro? I diritti delle donne, mia moglie è iraniana, ho scoperto che la donna in Iran è al centro della famiglia, le nostre paure nascono da cose che non conosciamo. Questo è sempre Beppe Grillo. E poi su Ahmadinejad, che vuol cancellare Israele dalle mappe, cambierà idea? Non penso lo voglia davvero, lo dice, basta. Del resto, anche quando uscivano i discorsi di Bin Laden, mio suocero iraniano mi ha spiegato che le traduzioni non erano esatte. Avete capito, cari ascoltatori, l'abbiamo tradotto in maniera errata Bin Laden, da qui nascono tutti i problemi. Perché, aggiunge ancora Beppe Grillo, nessun dubbio c'è una lobby ebraica che controlla il sapere. Tutto ciò che in Europa sappiamo su Israele e Palestina è filtrato da un'agenzia internazionale che si chiama Memri, e dietro Memri c'è un ex agente del Mossad. Ho le prove. Ken Livingston, per esempio, l'ex sindaco di Londra, ha usato testi arabi con traduzioni indipendenti, scoprendo una realtà mistificata e completamente diversa. Vabbè, queste dichiarazioni hanno creato, come potete, suscitare molto scalpore in Israele, le dichiarazioni di Beppe Grillo al giornale Yediot Ahronot. A proposito di Grillo e la sua e la lentezza invece del sindaco del Movimento 5 Stelle di Parma, Pizzarotti, fa un'intervista al quotidiano nazionale, il sindaco ai pasticci, sbaglio ma la gente è con me. Sarà forse finita la mia luna di miele con quei due o tre consiglieri di minoranza che sono lì per fare polemica. Cosa può interessare agli italiani se manca un assessore a Parma? Così Pizzarotti, che fatica a mettere ancora in piedi la giunta. Ma è vero che Grillo si è arrabbiato moltissimo con lei, lo hanno scritto i giornali. Comunque oggi ci sarà il nuovo assessore, dopo l'incidente di avere messo assessore uno che poi aveva avuto un problema di un'irregolarità edilizia oltre che un fallimento. È stata una mia scivolata, mi sono preso già le responsabilità. E poi l'accusa di aver fatto un libro, di essere un po' mediatico Pizzarotti. Ho fatto il libro solo perché il ricavato andrà tutto in beneficenza. Quello delle interviste invece mi hanno chiamato tutti. Se non rispondo dicono che me la tiro o che mi nascondo. Se rispondo che voglio mettermi in mostra. Dico solo che l'interesse per questa vittoria è andato oltre ogni previsione e comincia a dare fastidio a molti. Insomma, così Parma, il sindaco, i pasticci, sbaglio ma la gente è con me. Lo chiederemo anche a Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia-Romagna per il Movimento 5 Stelle, alle 8:20. Intanto troverete molto di attualità internazionale, molti aprono su questo, la vittoria in Egitto di Mohamed Morsi, nuovo presidente egiziano e eletto democraticamente, anche se le analisi che vi segnalo sono di Bernardo Valli in prima pagina di Repubblica, grande inviato di Repubblica. Il potere resta in mano ai generali, ma sarà sfida con le masse islamiche. Così come per quel che riguarda Morsi, chi sia Morsi, vi rinvio al profilo che Domenico Quirico sulla Stampa traccia di lui. Morsi, il fratello che mescola credo nell'Islam e libero mercato. Fratello, perché fa parte dei fratelli musulmani. Questo per l'attualità internazionale. Che dire, noi parleremo anche della vicenda del Dalai Lama e la cittadinanza mancata a Milano. Questa è alle 8:30, la cittadinanza mancata perché si è detto la Cina ha minacciato, non veniamo all'Expo. La Realpolitik in salsa milanese. Che dire, devo chiudere con il titolo della Gazzetta dello Sport. Beh, l'Italia che vince, la Gazzetta con uno sfondo tricolore. E ci sono Alessandro Diamanti e Gigi Buffon, cioè l'autore del rigore decisivo e il portiere che ha parato i rigori, che ci hanno portato in semifinale. E andiamo, questo è il titolo, Germania a noi due, continua il sogno dell'Italia agli europei. Il giornale radio.